Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Vai Arianna. Davanti alla Corriana, dai Arianna, dai, davanti. Arianna, dai, dai, no, è dietro. Parte dai, la barca, viene dietro, attenzione da Cristi. E passa anche da Cristi, no! Fuori tutte, cosa succede? Non è vero. Oh, incredibile, la cinese lì, la più debole del mondo. In una gara rovinata da quella caduta. Ultimo giro. Dai Arianna! Non ce la fa, è bronzo. Attenzione, perché se arriva la squalifica confermata, la penalità la Cristi è ufficiale. Arianna Fontana è argento! Argento per Arianna Fontana! Medaglia d'argento con la moviola in campo. Sul campo di ghiaccio naturalmente, terza medaglia azzurra con questa finale dello short track 500, se vogliamo, anche abbastanza comica, e pronti via, questa cinese era lì che nemmeno doveva andare alle Olimpiadi, fa la lepre, va via, e poi c'è la Cristi inglese che entra in duro sulla caviglia di Arianna Fontana, vanno per terra le altre tre. La gara da lì non ha storia, poi insomma avete sentito, ma poi ci colleghiamo con Sochi e vi raccontiamo di nuovo tutto. Però instant replay, moviola in campo, mettetela come volete, la medaglia della Fontana da bronzo diventa argento, quindi cartellino rosso e rigore, e dunque medaglia, terza medaglia per gli azzurri. 800 24 00 24, Franco Piantanini da in redazione, oggi c'è anche Giorgio De Luca perché il Napoli ha vinto, c'è Roberto Scaltritti in regia, c'è Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Ciao, come va? Benissimo, come in un film a San Paolo ieri sera, eh? Entra Maradona, segna Higuain, la notte di Napoli diventa piena di magia. Insomma, se fosse stato un film, chissà quanto sarebbe costato questo copione, questa realizzazione De Laurentiis. Parecchio, perché è costruita nel tempo, è costruita negli anni. Insomma, la serata di ieri è una di quelle serate che rappresenta, insomma, un po' la congiunzione finale di tutta una serie di elementi che Napoli sta costruendo negli anni, con tanti strappi in positivo, con tante accelerazioni, con qualche momento di stasi che è normale, che è fisiologico, ma insomma complessivamente il titolo in borsa, anche se non è quotato il Napoli, è in crescita costante, mi sembra, sì. Insomma, e devo dire che ovviamente le ultime due partite hanno cambiato il segno di questa stagione, che è ancora, sì, certo, tutta lunga, aperta davanti, dove c'è un solo obiettivo impossibile, che è lo scudetto, ma poi per il resto il Napoli è ancora in corsa. Sì, ancora in corsa, quantomeno per cercare di acchiappare la Roma, che ieri sera era come quegli sparring partner pagati solo per prenderne un sacco, in questa notte che era quella del Napoli, di Maradona, di Higuain, della grande libidina azzurra, eccetera. La Roma ha fatto veramente la figura dello sparring partner. Sì, la Roma ha fatto la figura di una squadra ancora non matura dal punto di vista, credo prima di tutto, mentale, di personalità, per poter reggere quel tipo di pressione. L'episodio chiave è stato il gol dell'1-0, se vuoi l'episodio chiave è stato il fatto che la Roma non ha segnato, ha avuto un paio di occasioni nella prima mezz'ora che potevano cambiare completamente il corso degli eventi. Dopo l'1-0 non ci sarà più partita, sì. Il Napoli si è preso il vantaggio di poter aspettare e ripartire, vantaggio che aveva inizialmente la Roma dopo 3-2 dell'andata, e l'ha sfruttato al meglio. I duelli individuali sono stati vinti dal giocatore del Napoli in maniera evidentissima, si è visto che Higuain è un giocatore che può essere dominante, che è arrivato a 18 gol stagionali, un giocatore così da Roma non ce l'ha, e ieri insomma le individualità del Napoli hanno fatto la differenza rispetto alla Roma in maniera nettissima. Beh, non ce l'ha, la Roma ne ha degli altri però. La Roma ha Gervinho, la Roma ha Strootman, la Roma ha Totti, insomma la Roma qualcosa non ha, magari un giocatore come Higuain mi sembra abbia parecchia leadership in questo Napoli, questo è senz'altro vero. Guarda, per me banalmente fino a ieri, ma lo continuo a pensare, che poi esiste una stagione, la Roma dimostra di essere migliore in difesa e a centrocampo, il sì. Napoli sicuramente è migliore in attacco, in queste due partite merita la qualificazione perché ha trovato all'andata, quando era in difficoltà, una forza di reazione che la Roma al ritorno, quando era in difficoltà, non ha trovato, per cui il verdetto è ineccepibile, sarà una grande finale, a questo punto veramente in campo neutro, anche geograficamente, fra due, tra chi arriverà con un'ora e dieci di treno da sud e chi arriverà con un'ora e venti di treno da nord, due tifoserie particolarmente calde. E chissà se sarà Dieghito, di nuovo, ieri sera, dai, spettacolo assoluto. È arrivato, sì, arrivato secondo tempo. Credo che ieri abbia sgombrato il campo da qualsiasi, magari qualcuno poteva avere il dubbio che volesse, diciamo, cercare il consenso complessivo della nazione, e invece mi pare che con quel 3 ha dimostrato che l'unica cosa di cui gli frega è del consenso dei tifosi del Napoli. Vabbè, chiaramente... Io non è che avessi grossi dubbi, No, neanch'io. Però so, Maradona in quel gesto lì, Poi tornando a Roma, hai letto, tornando a Roma stanotte alle 3, non so, dopo cena con i suoi amici autogrill, c'erano dei tifosi del Napoli che lo hanno seguito, si fermano tutti all'autogrill, entrano, grande Diego, toast per tutti, la sapevi questa? Sì, è la straordinarietà del personaggio. Io qualche giorno fa ho scritto poi che, a proposito di Woody Allen, una storia completamente diversa, perché chiaramente non sono presunti reati fiscali, ma qualcosa di potenzialmente più complicato, è il solito discorso: se noi dobbiamo giudicare il personaggio pubblico o l'uomo privato, se dobbiamo chiedere a Equitalia il permesso di amare Maradona, io a Equitalia il permesso non glielo chiedo, credo che Maradona faccia parte della storia dello sport, sia uno straordinario artista e come tale deve essere considerato. Poi è chiaro che certi suoi comportamenti polarizzano e possono non piacere ad alcuni, questo è destinato a far dividere, a far discutere, per tutta la vita, come divisivo, ti piace divisivo? Divisivo, come il signor Maradona, per fortuna ce n'è anche come sta Cruciani, meglio? Non lo so, non ho notizie. Divide, come è destinato a dividere anche Balotelli, Simeone dice è sì, campione, però, la voglio oggi, se... no vabbè, non sto paragonando, ma non sto paragonando, evidente, per risparmiarti 26 messaggi che già non sto paragonando, dico solo per fortuna ci sono ancora in giro dei personaggi che dividono nel gigantesco come Maradona, nel piccolo come Balotelli e magari come un signore che stiamo aspettando, il signor, ve lo dico dopo. Tutti convocati. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things we could be. No, per carità di Dio, Valdemara che io esulto mentre lui lo vede incazzato su una cosa, o viceversa, per carità di Dio, vederlo arrabbiato è una cosa tremenda, perché è inespressivo, guarda la cosa, non ti risponde, ti vorrebbe ammazzare, e quindi non ha nessun godimento della partita con Aurelio, per carità di Dio. Like a swinging vine, swing my heart across the line. Anzi, che prolunga per Maggio, è andato fuori tempo Bastos. Maggio va al cross d'interno e c'è il vantaggio del Napoli con Callejon. Di testa Callejon. Napoli 1, Roma 0. In questo momento va in finale il Napoli, anche se c'è ancora tanto da giocare. Ha sbloccato la situazione Callejon. De Santis, grande ex di questa sfida, e palla dentro sul colpo di testa di Higuain. Il corner fatale alla Roma, Napoli 2, Roma 0. Roma che subisce 2 gol di testa. Intanto Mertens trova il corridoio per Jorginho, ed è il 3-0 per il Napoli. Jorginho, valutato in posizione regolare, colpisce. Napoli 3, Roma 0, ha sentito, e come la botta della seconda rete la Roma. Questo è un gran bel film, dicevo prima, mi fa impazzire Verdone che dice no, io con De Laurentiis la partita mai, lui si incazza e diventa inespressivo. Presidente De Laurentiis, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti voi. Ha sentito la Verdone, la partita con lei non la guarda. Questa mattina ci siamo sentiti e mi ha detto io che devo fare, dopo che il primo gol ho preso ho capito già come andava a finire. Derby del Fin l'ha vinto 3-0 lei, va così, no? Derby del Sud l'abbiamo vinto, però non hai detto l'ultima parola, perché abbiamo un altro incontro con la Roma adesso a marzo. Quindi altro derby De Laurentiis Verdone, vediamo come va la pellicola. Pierluigi Pardo. Questa volta Verdone vorrà venire a vederlo sugli spalti. Ma con lei ha detto di no, perché diventa, no, ha detto di no, diventa ma cattivo. Ma nella vita poi ogni tanto si cambia, no? Pier? Presidente, l'immagine, visto che parliamo di cinema, l'immagine che si porta dietro, la più nitida, il fotogramma, il frame, per usare un linguaggio cinematografico, della partita di ieri, il momento che non dimenticherà mai, qual è? Ma guardi, io non credo che ci siano dei momenti particolari nel calcio, perché sono tutti dei momenti entusiasmanti. Il calcio è adrenalina pura, e nel momento in cui l'evento particolare si realizza, in quel momento lì c'è il massimo, si è survoltati al massimo, quindi non c'è un ricordo specifico. Poi ce ne sono tanti bellissimi, il passaggio in Serie B, il passaggio in Serie A, il primo approdo nell'Europa, sono tantissimi, partite straordinarie con il Chelsea, partite straordinarie con il Borussia Dortmund, l'ultimissima con l'Arsenal. Cioè, l'importante è onorare la maglia, nel senso che io voglio intorno a me tutti dei professionisti, e chi non condivide il progetto, non condivide il massimo, la massima autorità che c'è all'interno di uno spogliatoio, che è diciamo il club rappresentato dall'allenatore, e trovasse e troverà e trova difatti spazio altrove. Sì. Ma questa è una regola, credo, che vige in tutti i mondi del lavoro, no? Sì. Quando si fa un lavoro. Mi pare che lei abbia incoronato Benitez ieri sera, no? Questa partita è stata un po' come il vento che ha portato via un po' di nuvole. Benitez ce l'ho incoronato quando mi ha offerto un breakfast a Londra che mi ha conquistato. Perché era una persona, sembrava mio padre, sembrava mio fratello, sembrava un amico, sembrava tutto quel calore che un certo tipo di napoletanità esprime in famiglia, io lo ritrovavo lì. E poi assolutamente era convincente sul piano tecnico, ma era convincente soprattutto per il suo grado di umiltà, che mi ha veramente così impressionato. E dopo due ore io non ci ho pensato un secondo, ho detto: questo è l'uomo che va bene per casa Napoli. Non ho avuto dubbi, quindi non è che io ho bisogno di incoronarlo, io gli ho dato fiducia completa. Sì, aveva anche diviso a un certo punto, Pardo, anche a Tiki Taka e Sollazzo, Auriemma, e un po' di napoletanità che non stavi con Benitez a un certo punto, Pierluigi. Nel momento difficile, Presidente, lo saprà, qualche nostalgico di Mazzarri c'è stato, ma io volevo capire umanamente, perché poi tecnicamente io credo che Benitez stia facendo un grande lavoro proprio di cambio di mentalità, di filosofia, rendere la squadra molto più internazionale, giocare un atteggiamento positivo che poi è quello che ti può portare lontano in Europa. Umanamente in cosa sono diversi questi due allenatori, comunque entrambi bravissimi? Ma guardi, Mazzarri innanzitutto è uno stacanovista del lavoro quanto Benitez, però hanno delle metodologie diverse anche sul piano del gioco. Benitez è uno che ti dice: guarda Aurelio, io devo cambiare, perché nessuno gioca il 3-5-2 in Europa, le vere squadre, i veri grossi campioni giocano con il 4-2-3-1. Io lo so che questo ci creerà dei problemi, ma noi dobbiamo assolutamente cambiare. Io poi avevo il problema che, dovendo dare via Cavani, perché Cavani aveva dimostrato e aveva affermato che il suo ruolo a Napoli era terminato e quindi nessuno vuol tenere gli scontenti in casa, e a un certo punto è chiaro che c'era questa sostituzione che doveva, però avevamo concordato con Benitez che avremmo creato più punti di attacco, quindi meno egoismi, quindi più una squadra pronta a giocare tutti per uno, uno per tutti, e non a giocare soltanto per una persona. Sì. quindi anche da qui l'idea di Rafa di prendere i vari altri giocatori, Mertens, Caion, sì, giocatori molto offensivi. Lui non ha avuto assolutamente dubbi a utilizzare fin da subito Insigne, cioè con Mazzarri c'era sempre la paura, il timore di dover impegnare qualcuno di nuovo. Per cui questo qualcuno di nuovo, quando arrivava, esempio Vargas lo abbiamo dato in prestito in Spagna, l'altro giorno ha fatto un assist prima partita e ha segnato un gol. Quindi voglio dire, sono, per merito suo si sono segnati due gol, e questa è una squadra dove era stato mandato via l'allenatore, era stato mandato via il direttore sportivo, era stato mandato via il direttore generale, erano stati mandati via tutti, hanno riazzerato tutto e hanno chiamato Vargas. Cioè, da me Vargas è stato un fantasma. Sì, quindi, era anche pagato molto Vargas, tra l'altro, sembrava il l'avevamo nuovo... pagato molto perché era un pallone d'argento sudamericano, certo, aveva vinto e stravinto, aveva segnato anche nella Coppa loro. No, ma è arrivato come il nuovo Lavezzi, forse, o questo si diceva. Presidente, mi dia un titolo. Maradona ieri, il frame io ce l'ho per la partita di ieri sera. Maradona accanto a lei e quell'esultanza che, insomma. Ma Maradona è uno di casa. C'è, è appunto, c'è un posto per lui, ci può essere un posto per lui. Perché Maradona sì? Ha fatto con me un film, quando io di calcio non sapevo nulla, un film che si chiamava Tifosi. Me lo ricordo. E con Maradona abbiamo passato una nottata all'hotel d'Inghilterra dove lui stava, dove mi ha raccontato in quel momento lì insieme alla moglie tutta un po' la storia della sua vita, ed era affascinantissima. Poi dopo chiaramente ci siamo persi di vista, e quando io ho preso il Napoli lui è venuto solo una volta, mi pare nel 2005, esatto, per la partita di addio di Ferrara, e poi ha avuto questi problemi con con la giustizia, col fisco, eccetera eccetera, con il fisco, e quindi era sempre molto complicato e complesso il vedersi o il darsi degli appuntamenti. Ma nella sua immaginario c'è un posto per Maradona nella famiglia Napoli in futuro? Beh, lui potrebbe essere uno straordinario ambasciatore del Napoli in giro per il mondo. Perché il Napoli avendo 6 milioni di tifosi in Italia e altrettanti se non di più fuori dall'Italia, beh, un collante coagulante, un bellissimo ambasciatore nel mondo, per esempio statunitense, dove ci sono moltissimi napoletani, certo, in Inghilterra, in Germania, in Sud America, in Oriente. Cioè, voglio dire, ormai noi ci stiamo globalizzando. Quando fra 10 anni il calcio statunitense dirà la sua alla grande, e quando anche la Cina dirà la sua alla grande, quando anche l'India, che si sta convertendo per necessità televisive globali del globo, dal cricket al calcio, a Calcutta ci sono già 120.000 persone durante le partite allo stadio. Negli ultimi 5 anni c'è stato un vertiginosa crescita, certo, in India. Poi ora c'è l'Indonesia, non ci dobbiamo dimenticare che lì c'è 1.200.000 di persone, e in Cina c'è 1.500.000. Adesso hanno levato anche il limite di un figlio a coppia, quindi voglio dire, quindi sì, c'è una moltiplicazione incredibile. Presidente, io la ringrazio e le ricordo che io e Pardo stiamo ancora aspettando che ci chiami per quel ruolo, si ricorda, ce l'aveva detto l'altra volta. Assolutamente, però voi vi dovete far sentire più spesso. Vabbè, quando vuole. Poi quando voi siete anche una radio importante, perché voi siete il sole, quindi il sole ci deve far capire il sole mio, dove eh? Va, e ci deve illuminare e riscaldare gli animi, perché sennò qui ci ammosciamo tutti quanti e quest'Italia non esce fuori la palude dove ci siamo andati a buttare ormai da 10 anni a questa tanto parte. Sarà un bel derby in tribuna con Della Valle, ecco, per la finale. Volevo chiedere, sono due storie in 30 secondi se possibile. C'è una sintonia, insomma, con Diego siamo amici da una vita, ma siamo anche soci, perché noi per esempio il 29 maggio, tra l'altro, apriremo a Roma una Disneyland intitolata Cinecittà World, che è stata disegnata e tutta allestita da Dante Ferretti, pluripremio Oscar per Martin Scorsese e compagnia bella, dove io e Diego siamo soci insieme a Luigi Abete. Quindi voglio dire, Già abbiamo a distanza di 20 giorni, quando si giocherà probabilmente il 7 maggio, e già il 29 maggio saremo lì a tagliare il nastro di questi 170 ettari dove ci sarà il parco a tema più importante d'Europa. Quindi voglio dire, abbiamo anche per esempio la Sochi, dove è stata fatta quella bellissima apertura dei giochi, così come nel 2016 Rio de Janeiro, l'apertura e la chiusura dei giochi verrà allestita da una società dove io, Diego e Abete siamo soci. Quindi voglio dire, quindi con Diego abbiamo tante cose da condividere, a parte l'amicizia e a parte la Coppa Italia, che quella vuole lei, vediamo se finisce con un pareggio e poi ai rigori così almeno vuol dire che ce la divideremo in due. Non credo dello spettacolo, e quindi vuole prolungare la durata. Io quando poi tipo per il Napoli deve sempre vincere. Avete visto io come ho detto che avremmo dovuto vincere a Napoli, e così abbiamo fatto. Io mi sono preso anche una bella responsabilità quando ho detto vinceremo. Grazie Presidente. Grazie a voi. Grazie davvero Presidente De Laurentiis. Arrivederci. Allora, la squadra ha giocato una partita con intensità, con un atteggiamento perfetto, iniziando da Higuain, con Reina tutti lavoravano nella fase difensiva, e dopo ancora andiamo avanti per fare gol. Credo che non perfetta, ma molto molto molto positiva. Convocati. Adesso torniamo con ascoltatori, 800 24 00 24, è il vostro momento. Marco, provincia di Pisa, buongiorno. Buongiorno, complimenti. Grazie per la trasmissione. Da quando è arrivato Paddo siete ancora migliorati. Che ne pensa di De Laurentiis? Io sono tifoso della Fiorentina. Come personaggio? È un grande presidente, penso che ha fatto una grande squadra, e sì, che niente, mi piace. La Fiorentina le piace? È vulcanico. No, Fiorentina secondo me, io guardo tutte le partite, è una squadra che un po' a livello nazionale è un po' mediaticamente sottovalutata, però vedo che sta giocando bene, che fa un po' di fortuna negli infortuni. Beh sì, ha parecchia sfortuna negli infortuni, però nonostante questo è riuscito ad ottenere quello che ha ottenuto, semifinale di Coppa Italia, sta facendo secondo me un eccellente campionato, e lei lo sa meglio di me, quindi. Pierluigi, sei tornato? Eccoci. Sono a Napoli, quindi c'è un certo entusiasmo in città, capito? Sei a Napoli? Ti hanno travolto? Sono a Napoli. Ti hanno travolto col loro entusiasmo? Beh, o sei andato a fare il corteo? È straordinaria, insomma, come del resto straordinaria a Roma. Sono quelle piazze dove il calcio si vive in maniera globale, totalizzante. In maniera diversa. E signor De Laurentiis, tu sei uno dei miei personaggi preferiti, non riesco neanche a essere eccessivamente imparziale con lui, però è una mia debolezza, questo lo sapete. Ci sono dei personaggi che mi coinvolgono. È un personaggio però che divide, non poco. Beh, divide sicuramente, perché quando si fanno delle rivoluzioni anche culturali, anche così di immagine, è chiaro che c'è chi è favorevole e chi è contrario. Lui ha portato tutta una serie di elementi, diciamo, di internazionalizzazione, di spettacolarizzazione del gioco del calcio, e poi chiaramente insomma è il presidente di una squadra che è molto amata dai suoi tifosi, ma che ovviamente ha anche tanti avversari. Insomma, Napoli ha fatto paura, e quindi giustamente, cioè, le grandi, è ovvio, sono divisive, appunto, al discorso di prima, no? No, poi non è casuale secondo me il riferimento di De Laurentiis a Maradona, ambasciatore del mondo, perché sai benissimo che come bacino d'utenza mondiale, sì, dimmi. Penso che Maria Luisa sia già al lavoro per il comunicato stampa. Penso che il titolo del Corriere dello Sport di domani e del mattino sarà quello, insomma, perché sinceramente mi sembra la prima volta che il presidente, in maniera così chiara, perentoria e inequivocabile, dice insomma a Maradona parliamone. Poi adesso è chiaro che è una conversazione così astratta, però insomma, se domani dovessero uscire su questo non sarei sorpreso, ecco, certo. Perché beh, tra l'altro quello è un ruolo che Maradona potrebbe anche, dal punto di vista dell'affetto per i tifosi, mi sembra, dei tifosi nei suoi confronti, sarebbe No, ma chiaro, sarebbe comunque, è un personaggio straordinario. Quel ruolo lui ce l'ha già in Fieri, però un ruolo formale, istituzionale nel Napoli di Laurentiis, insomma, sarebbe qualcosa di importante, così come un ruolo per Mette nel prossimo film che ci ha promesso, quindi Maradona nel mondo e il presente di sottoscritto è Pardo nel prossimo film. Comunque, siamo pronti. 3170 giorni erano passati dall'ultima volta di Maradona a Napoli nel 2005. Stefano Cuneo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Prima convocazione. Prima convocazione, applauso. Prima convocazione, sì. Allora, applauso. Prima di tutto vi ringrazio per il tempo che ci fate passare. No, grazie a lei, non guardi, grazie a lei comunque. Poi passiamo all'intervento. La domanda, sì, è molto, volevo chiamare già lunedì, ma purtroppo per questo lavoro non ho potuto. Sì. Sono tifoso della Juventus e pensavo, e chiedo anche a Pierluigi, sul discorso di Conte. È un grande allenatore, ma secondo me gli manca ancora qualcosetta, nel senso che a volte dovrebbe avere meno presunzione e capire, saper leggere la partita, e, cioè nel senso, quando si è infortunato Chiellini, la Juventus senza Barzagli e senza Chiellini non può giocare con la difesa 3. Avrebbe dovuto scalare Lichtsteiner e passare alla difesa 4, dare più copertura, e sono convinto che la partita la portava a casa. Stesso discorso può essere per Firenze, diciamo. Sì, via. Ma secondo me senza Barzagli la Juventus fa molta fatica, l'abbiamo detto diverse volte in questi giorni. Non so se quanto dice lei, cioè il cambio deciso di modulo per la contemporanea assenza dei due, insomma, fosse qualcosa da prevedere quando la Juventus è abituata a giocare in un'altra maniera. Mancava un quarto d'ora quel tipo di modulo, e il modulo che ormai è un po' la coperta di Linus della Juve. Io in astratto, cioè, il ragionamento ci può stare e ha una sua piena validità, però insomma la controprova manca. Mi sembra che se poi alla fine la difesa 3 è l'atteggiamento più congeniale di questa squadra, è quello che comunque al di là degli interpreti la squadra sente più suo, quindi se mancava poco, ecco, anche questo va detto, che mancavano 15-20 minuti, quindi era una situazione comunque da gestire di una partita che la Juve in realtà ha avuto anche la palla gol per chiudere, perché sì, insomma, se il tiro di Vidal era 10 cm più basso finiva 3-1. No, ma poi comunque magari avremmo celebrato, no? Il calcio non bisogna mai dimenticarlo, vive anche di questo. Sì, ma comunque secondo me stiamo abbastanza discutendo di lana caprina. Dai, la Juventus con 9 punti, quei due gol subiti, l'abbiamo già detto, probabilmente hanno anche fatto il gioco di conto, e sono molto curioso di vedere la Juventus domenica, perché secondo me avrà un altro atteggiamento, oltre che magari qualche altro interprete, perché leggo di un momentaneo accantonamento, un momentaneo turnover nei confronti di Pogba e a favore di Marchisio. Nicola, provincia di Napoli, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la e grazie per lo spazio. Grazie a lei, dica. Niente, volevo fare innanzitutto i complimenti al Presidente, perché comunque è da una notizia stratosferica che il futuro di Diego è a Napoli e nel mondo. L'ambasciatore del Napoli. Poi volevo fare una domanda in diretta al Presidente, purtroppo non gliel'ho potuto fare, spero che mi sta ascoltando. Sì, dica. Presidente, prendici Skrtel, un grandissimo difensore a fianco a Viola, questo volevo dire. Poi volevo fare una ramazzina al tifoso che è intervenuto adesso, tifosissimo della Juve. Io sono un grande tifoso del Napoli, per me la Juve è sempre la vecchia odiata signora. Però faccio i complimenti ad Antonio Conte. Antonio Conte è l'unico che veramente ha fatto fare il salto di qualità alla Juve, e faccio i complimenti ad Antonio Conte e quello che si permette di contestare. Io da grandissimo tifoso del Napoli, ripeto, non posso vedere la Juve. Hai capito? Comunque, hai capito. Faccio Giulia i complimenti da a Napoli. Da Napoli giù le mani da Conte, da tifoso del Napoli. È una grande dimostrazione di lucidità, perché insomma... Ma perché, non lo so, cioè io forse perché ho una visione laica, però mi pare male, cioè non mi sorprende il tifoso del Napoli che dice che chiaramente la Juve non gli sta simpatica, ma riconosce che Conte è un grande allenatore. Insomma, credo che questo faccia parte della... cioè mi sembra la norma, non mi sembra un'eccezione sentire un ragionamento come questo. Senti, non ti fa... E su Skrtel, no, volevo dire una cosa su Skrtel, che in realtà il vero giorno cruciale in negativo della stagione del Napoli sarà Dortmund, perché a Dortmund il Napoli aveva la quinta giornata di Champions League e so per certo che si stava già muovendo sul mercato per cercare di prendere uno fra Skrtel e Mascherano, e se fosse arrivata magari con una giornata in anticipo quella qualificazione, il Napoli si sarebbe mosso subito e avrebbe avuto proprio un vantaggio di tempi per poter arrivare a quei giocatori lì. Non sono arrivati, io rimango abbastanza sorpreso della campagna acquisti del Napoli in gennaio, perché secondo me in difesa bisognava rapportare di più la difesa, questa è la mia idea. E questo Enrique non ti convince che ieri ha debuttato? Ma no, ma secondo me era la priorità, cioè, secondo me il Napoli già ha pagato con punti che ha perso a gennaio, secondo me bisognava subito intervenire e andare a prendere un grande difensore come priorità assoluta. Devo dire che l'investimento che è stato fatto per Jorginho, insomma, sta andando alla grande, quindi per me c'era meno bisogno, cioè dall'esterno ti dico che per me c'era più emergenza dietro. Lo so Pier, però i grandi difensori li vogliono tutti, sono erba voglio, il problema è che ce ne sono davvero pochi adesso. Vidic, certo, che è conteso tra l'Inter, Napoli eccetera eccetera, pur essendo un giocatore che è molto oltre i parametri di Toero, che li vuole giovani e che non costano così tanto. Vidic ne ha 31-32 e costa molti soldi come ingaggio. Stai lì, Pierluigi? Sì. Traffico poi Udine, Frosinone, eccetera, eccetera. 800-24-0024, numero verde. Poi mi dici anche su Balotelli, perché. Ah, ci mancava, No, sì. ma scusa, notizie di oggi. Cioè, Seedorf ha parlato. Ha detto questo. Spero che Balotelli possa esplodere e diventare il campione che ancora oggi non è. In questi giorni. Non c'entra figo, Non ti voglio far parlare di quello. Ti voglio far parlare, insomma, di Balotelli. Ne ha parlato Simeone, ne ha parlato Seedorf, ne parleremo anche noi. Tutti convocati. No, che ti dicevo, per Luigi, mi sembra, cioè, è notizia di oggi appunto questa domanda a Seedorf. Domani c'è il Bologna e appunto Seedorf che torna a parlare di Balotelli, è stato un po' l'uomo della settimana nel Milan, come accade peraltro anche troppo spesso, tu hai ragione, però Seedorf ha detto: spero che possa esplodere e diventare il campione che ancora oggi non è. Leggo come hai letto tu l'intervista di Simeone, prossimo avversario del Milan oggi sulla Gazzetta, di Balotelli, dice: un fenomeno, uno che può far fare il salto di qualità alle sue squadre, un giocatore che mi piace moltissimo, per il quale nutro grande ammirazione, uno che può resuscitare una partita morta. Sì, ma guarda, io qualche exit poll dopo Napoli l'ho fatto e devo dire che la sensazione che qualcosa si potrebbe anche rompere, ce l'ho, lo dico sinceramente. Poi, che si possa rompere all'interno del Milan? No, all'interno, c'è anche che Balotelli possa pensare in estate di andare via Avrà letto anche tu l'interessamento dell'Arsenal, che è pronto ad offrire 30, il Paris Saint Germain pronto a giocare addirittura al rialzo. Viene molto la Seedorf, noi li avevamo visti esordire in quel modo lì, no? Con quel gesto I appunto, want you, ma non si amano così alla follia, non c'è questa attrazione fatale tra i due. Non lo so se non si amano alla follia. Io credo che Seedorf abbia pienamente il diritto, visto che è un allenatore nuovo e che è, diciamo, unto dal consenso di Berlusconi, che oltretutto insomma, dal punto di vista calcistico, intuizioni felici negli anni ne ha avute parecchie, ha fatto anche lui degli errori come tutti, però insomma spesso questi colpi di genio con Capello gli sono riusciti, quindi si fida di lui, si fida tanto di lui, lo voleva già l'estate scorsa. In qualche modo Seedorf, arrivando a gennaio, rischia anche un po' di bruciarsi, perché si prende una squadra a metà stagione con tanti problemi, soprattutto una squadra che suma, non disegnata da lui. Io credo che Seedorf abbia il diritto di poter dire meglio credo a Balotelli e lo tengo a tutti i costi, oppure vediamo, sapete, cioè, vediamo. 25 milioni mandiamolo via con tanti in bocca al lupo, e con quei 25 milioni magari prendiamo due giocatori che mi piacciono di più, proprio la norma. Però penso che a Napoli con quella sostituzione qualcosa possa essere successo. Poi settimana prossima magari Balotelli fa la tripletta e li vedremo abbracciarsi, perché questo è il calcio, è la natura del calcio in assoluto. Domani, poi a Bologna al quadrato. Gaetano, provincia di Udine. Sì, buongiorno. Due argomenti brevissimi. Prego. Mi ha previsto anche perché c'è il signor Pardo. Dica. Avete parlato di Mourinho in settimana, no? Sì. Mourinho, quando vinse con l'Inter, andò al Real Madrid perché non gli piacevano i 15 punti di distacco dal Barcellona. Lui a fine campionato scorso andò al Chelsea con 15 punti di distacco da Barcellona. No, ma Gaetano, a Mourinho piaceva molto il grano che gli davano e la prospettiva che aveva nel Real Madrid. Quindi, però lui era andato al Madrid Vabbè. Perché non gli hanno piaciuto i 15 punti di distacco da Barcellona, no? Questa... è andato via con 15 punti di distacco. Sì, questo nemmeno la ricordo. È un uomo che al di là dei soldi, chiaramente si guadagna a carro e strade, è un uomo che ama le sfide, questo è evidente, insomma. Chelsea è casa sua, più di qualsiasi altro posto, secondo me. Ancora più dell'Inter. Chelsea è il posto dove mille volte ha fatto capire che sarebbe tornato e c'è tornato. Vediamo come va. Ovviamente quest'anno sta scegliendo il basso profilo, no? Il cavalluccio. Sì, il cavallo piccolo. Via lo champagne, non mettiamo neanche in frigorifero. Secondo argomento. Via. Premetto che sono grande tifoso del Napoli. Ecco. Anche se non sono di Napoli. Secondo argomento, secondo me il miglior acquisto del Napoli quest'anno l'ha fatto che è Benitez. Il miglior acquisto del Napoli, a parte il giocatore, è Benitez, perché lui ha portato la mentalità vincente che mancava al Napoli. Guarda, è una cosa che ho detto anch'io, è chiaro che oggi c'è la rivincita del partito di Benitez, il coronato di Laurentiis, che insomma è un partito molto, molto discusso, molto chiacchierato, come si diceva anche prima con Pierluigi, perché fino a una settimana fa andava in giro per Napoli, secondo me si era al 50%, no? nel sondaggio popolare. Adesso il vento è cambiato. Io continuo a pensare che sia un allenatore molto intrigante per quello che il Napoli vuole essere, compresa la mentalità del suo presidente, quindi questo occhio attento anche all'estetica, allo spettacolo, alle emozioni. Mi viene in mente Carlo, la vigilia, tanto insomma la cosa si sa perché era stata immortalata dalle telecamere di Mediaset e di Sky, l'allenamento della vigilia di Chelsea-Benfica ad Amsterdam, quando a fine allenamento Benitez arrivò lì, c'ero io, c'era Riccardo Trevisani di Sky, forse ci fosse Talenti, qualcun altro, e Benitez che è uno che conosciamo da anni e che è una persona molto ciarliera, molto, molto aperta, insomma, arrivò e chiese tutta una serie di cose sul calcio italiano, insomma, lì capimmo che Napoli e Roma erano due possibilità, poi Napoli ha spinto da subito. Io credo che lui a Napoli sia perfetto, l'ho detto anche pochi giorni fa quando c'era giustamente un po' di scetticismo perché c'era stata Bergamo, perché il Napoli aveva perso tanti punti in casa, e attenzione perché poi nella storia di Benito c'è questo elemento, di un grandissimo allenatore nelle coppe, un grandissimo allenatore nelle grandi partite, quando può giocarsela con grandi avversarie, e un po' più di difficoltà nella continuità, nella riuscire a tenere, no? Nella quotidianità, potremmo, azzardando un paragone, dire che Conte è un po' nell'altra categoria, poi dipende ovviamente anche dalle squadre che hai. Benissimo. Però sono due sport diversi per me: le 38 partite, la regolarità, vincere le partite quelle piccole, dove magari hai poca adrenalina, poca ispirazione, trovare comunque l'episodio per vincerla, e invece la mentalità che ti fa giocare alla grande alcune grandi sfide. Però mi sembra che Benitez sia strutturalmente napoletano, ecco, se posso dire questa cosa. Ecco, per cui. Sì, è così. Ti dico, secondo me in questo momento storico, poi magari la situazione cambia, poi magari il Napoli diventa come organico la squadra più forte, poi vuole puntare allo scudetto, che ne so cosa succede poi. Sentito pure il presidente, cosa ho detto prima, devo dire con eleganza, su Mazzarri comunque ha parlato di un bravissimo allenatore, sta chiaro vista, è innamorato del lavoro, però insomma, faceva fatica a far giocare quelli nuovi, certo. No, secondo me Vargas gli è rimasto qui perché davvero ha pagato un sacco di soldi ed è arrivato come l'empatia. C'è una vecchia commedia di De Filippo nella quale si parla della simpatia, uno dei misteri della vita, no? Uh-huh. Una delle prime commedie, e c'è questo elemento qui che è un mistero perché alcune persone sono molto simpatiche, perché alcune persone provano empatia e altre meno, e senza averlo detto però abbiamo capito che De Laurentiis si è innamorato di Benitez facendo breakfast, come ha detto lui, no? Parlando di cose, di questioni, di vicende anche non strettamente calcistiche. Sì, ma io credo che questo feeling De Laurentiis, poi in questo secondo me gli umori della piazza li capisce molto molto bene, in questo tipo di feeling sia condiviso con il popolo di Napoli. Ecco, poi chiaramente i risultati sono fondamentali, perché se il Napoli ieri perdeva 3-0 oggi era un'altra storia, era un altro film. Però che sia l'uomo adatto, oltre che una gran persona, una persona che io adoro proprio umanamente, una persona perfetta per Napoli, per identificarci con questa città, perché non si sporca le mani, cioè non è di quelli che non si vogliono sporcare le mani, vogliono rimanere distanti, ma è di quelli che invece questo tipo di rapporto non lo rifiuta. Ma certo, ma anche perché è molto furbo. Pierluigi, grazie, sentiamo domani. Ciao! Ciao. Tutti convocati. 800 24 00 24, il vostro numero verde per intervenire ogni giorno, siete sempre convocati. Convocato anche, prima abbiamo sentito De Laurentiis, presidente del Napoli, su vari temi, compresa quest'idea di Maradona ambasciatore del Napoli nel mondo in maniera ufficiale, vedremo se avrà un seguito. Simeone, dicevo, argomento di cui si è discusso e che io discuto perché secondo me bisogna farlo. Balotelli, Simeone, cosa ha detto? Straordinario, un giocatore diverso, un giocatore che ti fa un salto di qualità, che puoi vincere una partita da solo, un giocatore individualista, però che sicuramente uno lo vuole in qualche squadra, no? No, non credo fragile, al contrario, io credo che un uomo che riesce a trasmettere sentimenti è forte, no, fragile, al contrario. Beh, ditemi la vostra, 800 24 00 24, è la mia, l'ho già detta, ma c'è arrivata invece anche una voce anche più importante, almeno oggi, che è quella di Arianna Fontana, medaglia d'argento nei 500 metri di short track, una finale molto strana, come ho detto in apertura, una finale decisa alla Moviola, dicevo così in apertura, tra poco andiamo anche a Sochi, però prima a Fontana. Mi spiace un po' perché alla fine eravamo in due specialisti nei 500, l'inglese comunque è abbastanza, quest'anno ha cominciato ad andare meglio e lei, la cinese, non ha mai fatto un 500 fino adesso, era il rimpiazzo della One Bang, e vederla lì davanti a me è un po' rode, però vabbè. Sochi 2014. Allora, Sochi, Maria Pia Vals Beltrán, dopo aver disboscato le foreste ieri, due medaglie di legno, oggi con la Moviola in campo, sul campo di ghiaccio, correggimi se sbaglio, è arrivato, esatto, l'argento di Arianna Fontana. Esatto, sbirciatina al replay. D'argento, onestamente c'erano tutte le premesse per avere una medaglia d'oro, perché aveva patinato molto bene in scioltezza, passati i quarti, passate le semifinali come seconda, però patinando comunque in scioltezza e dimostrando anche di avere parecchio mestiere, perché proprio nella fase è molto bello lo short track, è tra gli sport delle Olimpiadi invernali per il momento che ho visto, è quello che a me personalmente piace di più. Sì. Tanta strategia, molto atletico, molto violento anche agonisticamente. Diciamo, scusa Carlo? No, dicevo, anche agonisticamente violento, se vogliamo, cioè uno sport dove, dove se le danno, come dimostra anche finale. Per quanto riguarda gli uomini, noi anche con Fortale è passato, giusto perché sono caduti gli altri e si prendono di quelle legnate esagerate. La stessa Arianna Fontana, ormai avranno già visto anche i nostri radioascoltatori le immagini, magari in streaming o così, è cascata violentemente, però poi si è rialzata. Secondo i ben informati, lei comunque sapeva che avrebbero squalificato Elise Christie per la Gran Bretagna, quindi è andata, è ripartita cercando comunque di fare la sua gara. È chiaro che per le condizioni in cui era, se avesse fatto la gara come doveva farla, loro poteva arrivare. Sì, comunque delle quattro ha vinto quella assolutamente meno pronosticata, perché questa cinesina là lì nemmeno doveva essere a Sochi, cioè doveva essere da tutt'altra parte. Che non, infatti non la è certo sua storia è una delle più curiose oggi, da Cenerentola a Principessa dopo questa gara di short track, per cui adesso andiamo a cercare di capire dai colleghi anche cinesi qualcosina in più su di lei. Se ne sanno qualcosa, sempre che ne sappiano qualcosa. Esatto, esatto, sempre che vogliono parlare, vogliono condividere le informazioni. Brava, perché sai, lì non si sa mai. Cos'altro succede oggi? Tra le altre cose, allora, vabbè, sempre per quanto riguarda lo short track, i maschietti hanno fatto una bellissima prova nei 5.000 metri, sapete che anche questa è una gara molto molto bella e divertente. Sono stati secondi praticamente tutta la gara e poi sono stati buttati fuori da Russia e Cina, e la Russia era terza e lei ha vinto la gara nei 5.000 metri, quindi una amarezza per loro, perché potevano davvero fare bene. Confortola nella batteria è passato ai quarti di finale nei 1.000 metri, sono in programma per sabato, quindi seguiamo anche lui. Poi di cose curiose e carine, ho incontrato degli spagnoli tutti esaltati, perché oggi ricorre un anniversario speciale, nel senso che 42 anni fa la propria nazionale spagnola aveva conquistato la sua unica medaglia d'oro ai giochi invernali, e quindi per loro oggi è festa grande. Sì. Hanno qualche, diciamo, ambizione per l'Italia di andare a prendere Vieni Plushenko, l'idolo ma di casa per il campionato artistico, finalmente un ambito degli uomini. Finalmente, noi come italiani ci proviamo con Parkinson, vediamo un pochino cosa succede. Finalmente un ambito nel quale gli spagnoli non sono competitivi, perché ci hanno anche fragassato, no? Tra il ciclismo, esatto. Ci battono. Infatti, anche vederli così, tra virgolette, umili, che non è male, con le orecchie basse. I colleghi della Spagna sono abbastanza sboroncelli, diciamo. No, vabbè, sai, sono abituati a primeggiare in ogni ambito, non è male sapere che festeggia anniversario il 42esimo compleanno della loro medaglietta. Esatto, era in slalom speciale con Paquito Fernando Ochoa, l'unico oro appunto che aveva ottenuto a Sapporo 72. Senti, ma oggi il tempo com'è? Sempre 20 gradi? Sei in bikini? Ragazzi, con gli occhiali da sole? È proprio una cosa esagerata. Ripeto, palme, sole, la gente che è bellissimo il parco olimpico, perché praticamente ci sono i 5 palazzetti dove si tengono gli sport che non sono quelli di montagna, e si può agevolmente camminare lì, gli atleti si muovono in bicicletta, e ci sono degli spiazzi verdi dove la gente si mette a prendere il sole, a mangiare l'hot dog tra una gara e l'altra. Ma pensa te, praticamente California, Los Angeles. D'altra parte ho letto di questo mago della neve finlandese che ha detto: non vi preoccupate se fa caldo, io vi faccio uscire anche nel deserto, vi faccio uscire anche a Napoli, Ha detto così più ambizioso, o meno. Beh, del resto se si fanno i mondiali in Qatar d'inverno, perché non sciare anche a Napoli? Grazie Maria Pia, un abbraccio. Ciao. Ciao a tutti, ciao. Beh, Napoli, a proposito, Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Le piacerebbe fare una slittinata in piazza del plebiscito? Magari, per lavoro purtroppo non ci sono. Niente. Dica. Io volevo fare un intervento riguardo i vari cori che si fanno, non è una protesta, è da premettere, che si fa tanto per cercare di non far succedere questo. Niente, io penso, a mio parere, basterebbe far vedere l'accoglienza che ha avuto la Roma, la squadra della Roma, i giocatori della Roma ieri alla stazione di Napoli. Tanto fervore, tanto onore da parte dei napoletani di accogliere una squadra del genere. Non c'è stata una contestazione tra napoletani e tifosi della Roma. Penso che sia una bella cosa da far vedere a tutti. Cioè, è un consiglio per i media, per tante. Sì. No, ma l'abbiamo anche visto, si è anche visto quando sono scesi dal treno, eccetera. Sì, ma ci sono molti sì, episodi che nessun tifoso. Però guardi, posso dirle una cosa. Allora, ieri sera, aspettando la partita del Napoli, ma giusto per così sottolineare anche la differenza di ambiente, che qualche volta ci fa provare una grandissima invidia, almeno io la provo, vi dico la verità. Ieri sera, aspettando la partita del Napoli, scanalavo e c'era Hamburgo-Bayern Monaco, quarti di finale di Coppa di Germania, quindi non esattamente la partita delle partite. Hamburgo reduce da 5 sconfitte consecutive, diventate poi ieri sera 6, tra l'altro 0-5 è finita a favore del Bayern. Ebbene, Hamburgo è uno dei momenti più neri degli ultimi anni, ultimi posti della classifica, un disastro. Ebbene, c'era quello stadio pieno come fosse la finale di Coppa dei Campioni, non gli striscioni, adesso andate a lavorare, adesso di qui, adesso di là vi tiriamo le pietre. Allora, c'era uno stadio meraviglioso, non ci stava più uno spillo, un tifo pazzesco. Dopo che una squadra, tra l'altro non una squadra banale, cioè l'Hamburgo, dopo che questa squadra ha perso 5 partite che ieri sono diventate 6. Franco, provincia di Vibo Valentia, poi ditemi se non devo provare invidia. Io la provo e non mi vergogno della mia invidia. Franco, buongiorno. Ciao, buongiorno. Siamo? Franco? Sì. Dica. Sì, mi senti? Boh, non lo so, ci provo, dimmi. Ascolta, volevo intervenire per chiarire il discorso. Quando un giocatore si fa male e uno butta la palla fuori vicino alla porta avversaria del base di attacco, perché all'interno del gioco della donna rana al portiere? No, guarda, io sento abbastanza male, perché la danno al portiere perché non lo so, io continuo a pensare che sia una sciocchezza questo. A me infastidisce moltissimo questa manfrina che si vede sui campi italiani. Anche lì, torna ieri sera, a proposito di invidia, scanalando, ho guardato un pezzo di Arsenal-Manchester United 0-0, peraltro, e io nemmeno si sognano di buttare il pallone fuori. A un certo punto un giocatore, contrasto durissimo peraltro, di un giocatore dell'Arsenal che è rimasto a terra, dopo, ripeto, un contrasto molto duro e dopo essere caduto davvero male, ebbene, si andava avanti a giocare. Ok, l'arbitro ha fermato il gioco e Moyes, allenatore del Manchester United, ha detto: ma perché ha fermato il gioco? Stavamo andando dall'altra parte, ma dove sta sta cosa di fermare il gioco? Ha fermato il gioco, cosa che gli compete, cosa che rientra nei suoi compiti, ha scodato la palla che è stata restituita all'Arsenal normalmente. Però come mentalità lì nemmeno si sognano di spararla sui cartelloni pubblicitari, è una cosa che a me fa imbestialire, e in questo io continuo a pensarla come disse Capello un giorno, e continuo a pensare che fosse un presidente, insomma, multerei i miei giocatori quando interrompono senza motivo, perché nel 99% dei casi il motivo di fatto non esiste, quando interrompono il gioco per queste ragioni. Ci fermiamo qui, ma torniamo naturalmente domani con tutti i convocati. Franco Piantoni, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, ciao a tutti. Forza Cristo, 2:06:29, è secondo, è medaglia d'argento. Ultime curve per Zöggler, ultime curve prima della leggenda, primo Zöggler, sicuramente medaglia, Armin Zöggler. Medaglia bianca nel tutto, giro. Con l'argento. Dai, Arianna, che l'argento si può fare, la penalità da Cristi ufficiale, Arianna Fontana.